5-10 e 5-10. Hola, attenzione sul 10, c'è qualcuno, cambio. Attenzione al canale 10, c'è qualcuno? Cambio Giovanni, ci sentiamo, 1, 2, 3. Ehi, ti sento, dove sei Giovanni? Ma sei in girella? Ehi, ti sento un po' bassino, ti sento, capito? Bassino di radio ti sento, Giovanni. Però già ti ascolto, dai. Se stai parlando da casa sei basso. C'è molto QRM oggi, Dammi un attimino che metto il ricevitore in carica, che è scarico. Attenzione, 10, c'è qualcuno? Sì, ci siamo, avanti. Ehi, già, ancora a vedere come ti arrivo adesso. Prova. 1, 2, 3, prova. E la radio è fortissima, 9, 10, sì, la radio è forte. Ma non è tanto la segnale da prima adesso? Non lo so perché sono col 3009, Antu. Sono col 3009 e questo qui è secco di segnale, capito? Minchia, da me sei a fondo scala, sei. Ho rotto l'antenna. Se mi rompo ancora le palle, prendo il segnale molto più alto del tuo. Se mi rompo ancora il cuore di io, Antonio cosa fa? Prende. L'hai alzata? E infatti sei a fondo scala tu. Ma che prima ero a fondo scala, te lo ricordi più? Sì, ma adesso mi tocca proprio il DB. Sì, ma non lo tocca il DB, ma manco pare il parlare di camera prima. Mica c'è Giovanni stanco, guarda se arrivi. Ma chi è che Giovanni stanco? A terzo pettine, va. Giovanni, lo ascolti Antonio? Ciao Antonio, io ti ascolto, tu da me mi senti? E io già ti sento a te. Confermo anch'io ti sento Antonio, tutto bene, dai. E sono entrato giusto per fare un controllino che stavo sistemando questo foto, questo baracchino e me ne rientro, d'accordo? Buon proseguimento a te, a Gianni e a tutti quelli che stanno in ascolto. Ciao Doppio Rum, grazie della compagnia. L'altra volta sei arrivati tu fino al video di in giù, a quello di Foto, là, come si chiamava? Ho capito, sì. Zona Chilivani. Ah, fino al secondo video che ho sentito, tutti e due. Kappa, meglio così, dai. Andava. Non rimani con noi, adesso è cambiato radio, anche Giovanni. No, lo sapevo, è sempre quello che io non uso mai, cazzo, non lo conosco. Gli ho aumentato, la regolazione dei fatti, questo, capito? Gli ho aumentato un pochino. Però venendo, che sono fuori in veranda per freddo. Andava già. Ehi, adesso è aumentato di brutto sia di radio che segnale, dai. Mettila, lasciala al massimo, così almeno non devi più toccarlo. Neanche a metà, gli ho fatto appena mezzo giro. Dai, non è niente, ci aspetto già, ok? Ciao ragazzi, sentiamo con calma. Ehi, Antonio, avanti. Capo, ciao, adesso lo sento bene. Prima non lo sentivo così bene. Manco io, perché ci avevo fatto al minimo, io ero grido. Aspetta un attimino che stanno andando a mettere il ricevitore in carica, dai che scarico, se no domani non me lo ascolto nulla. Aspetta che cambia il capo, voglio provare l'applicatore a vedere se fa. Hola, cala 10, c'è qualcuno, cambio. Hola. Attenzione, 10 K. c'è nessuno. Ehi, allora fai il segnale adesso. Torra, ti ho detto che sono 3.900, tu, e questo qui più di 9, non da. Ehi, ma c'è con l'amplificatore attaccato, ma si sente bene, sì? Sì, sì. Gaffa, gaffa. Ola, ola, la mazza di Nivaria. E cos'è? 200. Suga. Lo devi controllare lontananza. E si da dove l'hai sollevata l'antenna? Molto su adesso. Al tetto lo supera. Quasi. E come l'hai fissata tu? È una staffa. Gli hai messo una staffa in faccia? Staffa. Ola, ola. Gesù Cristo mio. Più scalda questa cosa che mi sta pompando forte. Che è? Cosa c'è già? Perché non l'hai messa direttamente sul tetto, cazzo? E non stavi a fare mille lavori. Ma dovevi mettere sul tetto il palazzo appena fatto, cazzo, ti dico la cosa adesso. Ma cosa? Messa sul tetto una volta per tutte non ci pensavi più. Ho messo delle staffe e la metto sul tetto a livello tetto, va. La metto come che sia sul tetto dopo. Ho capito, vabbè. Anda bene tu. Minchia, sta pompando, sta già come una volta. Yuhuu! Cosa ti stavo dicendo, Antu? La radio è un bel forte, la radio è una bomba. Quel microfono me lo devi dare a me. Sei più 4, eh. E dove si sente? Bene, bene. È fortissimo. Bene, bene, la radio è pulita. Cazzo, sta entrando la cosa nel computer già. Cosa? L'audio nel computer sta entrando, sta pompando forte questa cosa. Vedi nel computer, ragazzi. Qua sei in basso però, Ciao, buonasera. Ciao, Fla. Tu, si è cominciato a disturbare il tuo figura di Nassi. Ti metti tutti contro, mi occhio. Minchia! Va bene, devo salire ancora. Sì. Basso, sei qua, t'ha giù dito. E beh, Claudio, neve ce n'eri da te. Ieri, se non avessi avuto forestale non c'è riuscito. Ieri ce n'era un bel, oggi niente. Io ieri sono salito a Usilo, sino a Usilo, ma sono arrivato, vabbè, con la macchina mia, sono arrivato sino a dopo il rifornitore, sono salito su quel pezzo di salita e poi mi si è bloccata la macchina. Ho dovuto fare per i pizzi per farlo uscire da mezzo al ghiaccio. Ah, no, è avventurare, no? C'è la trazione così, bravo quanto puoi essere, ma ti scivola, cazzo, fai danno. No, io c'avevo la trazione inserita tutto il giorno, l'ho tolta stamattina, sono uscito tranquillamente, da tutte le parti sono andato. Tanto sei in basso di segnale qua, però sarà. Adesso l'ho attaccato, aspetta un attimo che sollevo in parte. Ora lo sono attaccato perché sta sbattendo troppo. Ma è troppo grande, no? Tu guardi troppo quello strumento del lineare, non è. Quello strumento non serve a niente. Per me se ti sta dando 100 watt è troppo quell'amplificatore. Controlla con uno strumento buono, perché passi da Santiago 3 a Santiago 5, troppo poco. Vabbè, oggi. No, no. Devo salire l'antenna sul tetto per esempio. Ho capito, però no, non mi tornano i conti, capito? Non mi tornano i conti. Vabbè, comunque Santiago 3 arrivi, S3 arrivi, liscio, quando attacchi S5, va bene. Dai, va bene già, che ero di passaggio, divertitela. Un abbraccio a tutti, già ci sentiamo. Ehi, ehi, dai, ah, si è attaccato il 3.900, adesso scendo con 4 watt. Non so come ti sta arrivando, ma sono col 3.900, liscio, liscio. Ah, tu arrivi benissimo, sei 9 più 10. Quando usi l'altro sei 9.20, stesso segnale che avevo quando eri a carbonazzi, no? Quando ero a carbonazzi. Non è cambiato niente, quando attacchi lineare a volte ti vedo, sei 9.30. Sempre uguale sei tu. Ma la portante da nebuto. Vabbè dai, ci sentiamo qua. Cosa? La portante? Io per sbaglio! La portante? No, Arturo! Ho schiacciato per sbaglio, ti chiedo scusa. Ehi, non c'è problema, non ti preoccupare. Dai, divertitela, ci sentiamo ragazzi. Ciao. mandaci un paio di chiamate dall'altra parte a vedere se c'è qualcuno. Ciao, ciao. Ciao, a 5.25 non c'è nessuno, c'è lui acceso. Adesso già c'è qualcuno, vediamo. Non so, c'è qualcuno a 5.25, qualcuno, ma non siete altri, c'è qualcuno ancora. Lì c'era qualcuno, c'era qualcuno. Oh. Non hai sentito nessuno? No, è acceso, non ho trovato nessuno. No, prima ero 40 metri, stavo ascoltando lì. Una favola arriva con l'antenna del baracchino sui 40 metri, là. Anche 9.20 di segnale. L'antenna del baracchino è sotto multipli, ricordo sempre, 7, 14, 21, 28, quindi tutte quelle bande le senti. Non c'è problema. Io non lavoro 10 metri con quel baracchino, quindi cosa cambia? Non cambia niente. Vabbè. Va bene, dai, ci sentiamo. Fatemi bene. Ciao Antonio, ciao Gianni. Ciao, ciao Cla. Buona serata. Avanti Antonio. Ciao Cla, ce la risentiamo. Ma allora cambiamo a Enrico, va. Cazzo abbracciamo. La grucca. Guardavo che ti dica. Anzi, già lo sai che ti voglio bene, ti do un consiglio, mettila direttamente sul tetto e non stai a fare mille mosse, mille cose. Se te la fanno mettere, mettila sul tetto e metti un'antenna come si deve, metti quella che c'è per via, la piazzi e buonanotte, esce una bomba. No, metto l'antenna seria, metto. Devo fare la serie che fa bomba. Ah, è perché salivo io e cosa, ma qua voglio. Comunque anche adesso che ho preso un rifiuto lo sento meglio. Ma un po' leggermente meglio la situazione. Gianni, eia. Non fare sempre a 5.25 però, mettiti anche i punti. 145, 7, 8, 7.5, noi siamo sempre lì, non siamo sempre a 5.25. Anche adesso, vedi, c'è gente che sta parlando. Ah, capo, vabbè, io pensavo che quello fosse canale monitor, vi trovate sempre lì, quindi attaccavo lì. Ho capito, monitor come può essere questo, ma ti sposti anche negli altri. 145 787.5, 145 662.5, noi ci abbiamo anche i punti e non è che parliamo solo in diretta. Adesso può dire, adesso mi sposto anche io, c'è Roberto con Mario sull'R7 Alfa. Cappa, va bene, ti ringrazio Cla. Andave, avanti Antu. Fatevi dare da Natalino le frequenze dei ponti in VHF, Gianni, che noi ci spostiamo a voi. Ehi, già me le faccio dare adesso. Quando è, me ne scrivo. E tante ci ho scritte anche tutte le frequenze per ascoltare sui 40 metri, sui 10 metri, sugli 80 metri, eccetera. E vabbè lì, basta metti a 7.000, 5.780, inizia a salire sino a 7.150. E ce li hai, capito? In 80 metri metti da 3600 a 3700 e ce li hai, non cambia niente, ma fatti dare i punti, la frequenza dei punti in VHF, così senti, insomma, questo l'altro giorno eravamo in 12 sulla R7 Alfa. Cappa, andava via, e tanto qua, solo nelle ore che qua faccio un po' di ascolto e poi attacco qui in modo che non sia senza ascoltare nulla, mi devo impegnare. Sì, vabbè, però quando vuoi ascoltare me lo ascolti. Riprendi Antonio, dai, passo in VHF, ciao ragazzi. Ciao, ciao. Ciao. Avanti. La stavo guardando, ma non li ascolto. A chi non ascolti? Non lo so tanto. Ma tu lo sai usare con l'apparecchio? Un coso l'ho usato bene sul ricevitore. Guarda che ha l'istip con il ricevitore. Aspetta. qualcosa, l'ascolti? Ascolto. Quello lì è quello che avevo io, sì, adesso che mi sono ricordato, quello lì è quello che avevo io, qui si era bruciato l'alimentatore, l'avevo dato a lui. Adesso troppo per due sempre, facendo il barbecue, facciamo le piedini, facciamo i genitori, così presto mangiate, tanto? Ah, preparare, poi la mangiamo a 7:30, no? Adesso le sì, perché che ore sono? Aspetta un attimo, devo fare una cosa, però già. Ma speriamo di aver migliorato, se no io mi metto due tappe lunghe, mi fanno da sinistra con il testo, quando sono sul testo, non sarà una grande antenna, però già poca. Anzi, perché non chiedi il permesso se te la fanno mettere sul tetto e lo fai direttamente, scusa, e metti direttamente l'antenna, quella che c'avevi a Sassari Vecchio. Non faccio minata, per adesso, perché te la fanno le palle, insomma. Non ho voglia per il momento, sto aspettando una cosa, sto aspettando. Poi dopo faccio un lavoro molto buono. Un'antenna manna, come si deve manna. Ma te hai fatto non è 5, però insomma una potenza alta. Vabbè, mi serviva 1 e 3 al massimo. 1 e 2, 1 e 3. E infatti quello di mia stava a 200. Poi attento con il lineare che ti fa consumare un po' di luce, mi ha detto occhio, e poi mi è arrivata la schicchiata questo mese, ma e mi ha fatta sul sa. Vai, fatti il ricordo, vai, fatti come si dice, ma no, un po' di consulente, ti puoi fare cosa con tutti i bicchieri, un po' di fare. E mi spetta? Certo che ti spetta. Lo fanno di corso di mio cognato, stanno bene, fanno tutte le cose, bene, sono riuscito. Ma informati, se lo faccio più la mia sorella e lo posso dire come ti ha fatto. Ma lo faccio dire la mia sorella, lo faccio dire di vedere come l'ho fatto e dire di fare qualcosa. 230 euro di luce mi è arrivato questo mese. Bubu. Caro Gianni, io lo compro io. Vabbè, ma perché tu non risulti che stai lavorando, va? No, ma sono due mesi che non lavoro più, mamma. Adesso mi ha fatto tante domande, adesso lunedì mi attacco qua. Cioè, i colleghi avessero fatto lavoro, Quanto stavo dicendo, ma lì non ci torni più altro. Non penso un lavoro. Cosa ti stavo dicendo? Ma tu sei in malattia adesso, o in infortunio? Malattia, no. Vabbè, tutti i lavori sono dignitosi se non vai a rubare, se lavori sono tutti dignitosi, anche il più umile dei lavori è dignitoso, l'interessante è che tu lo fai onestamente. Diciamo anche che magari vuoi cercare un lavoro che non ti faccia faticare come quello sì, quello è un lavoro che ti usura tutte le ossa. Grazie. arrangiarsi e così siamo. Però mi sono in condizioni di stringere, poi stringere, sarebbe una buona problema e ti rimani a tutti di là dei gol. Quindi il problema è anche per te, certo, soprattutto per te, e per lui e per te soprattutto, che c'è famiglia. Devi trovare un lavoro che ti dia una sicurezza, che ti dia un tanto mensile, e tu sai che da quel tanto devi togliere tanto per quello, tanto per l'altro, e ti devi fare i conti. Avanti. Ciao Gianni, buonasera. Chi c'è? Ciao Frank. Io e Antonio siamo, Antonio Bombolino. Bombolino Bomboletto. Ciao Antonio, buonasera. Buonasera Frank. Come va? Tutto ok? Tutto ok, se più forte anche se qua adesso. Cosa? Mi sento più forte di segnale. Forse, e tu sei il doppio di lui, Antonio. È una radio che è vero, Fra? Esce bene. Io l'ascolto bene qua. No, ma quando ti arrivo lì al monte, perché io ho salito di sull'antenna. Sino che sei 9.30 quasi. No, bene, da pure tu sei 9.30 qua. Allora vuol dire che qualche cosa abbiamo fatto di meglio, va? Ma l'antenna sul tetto hai messo? No, c'era ancora sul tetto, però non qualità di più. È un metro in più. Sì, arrivi benissimo qua. Ma già un po' lenta la cosa, però sono andato, sono pompato. Però arrivo lo stesso, sono arrivato a Santa Roma. Claudio non mi sente fortissimo, perché magari non mi vede, non so. Perché bisogna alzare un altro po'. Però cavolo, i miglioramenti sono tanti, prima in via per passi. Ma io ti ascolto benissimo, non ci sono problemi. Ma meglio così, dai. Qualcosina abbiamo migliorato adesso. Mi metto due tappe nella facciata lì, me la minuta. Prendo un palo da cemento e ce la salgo su. Andava. A me la radio bene mi ascolti, sì. Ma se no, con lo scala. Vabbè, Gianni, a Gianni non le dico nemmeno, fintanto arrivo a fondo scala con la testa. Caffa. Siamo a due passi, io sto facendo con 4 watt, sono col 3009 fra. E io sto facendo con pochi watt lo stesso. Oh già. 3 watt, dai, a fare del genere, 3-4 watt. Anche perché se usi molti watt ti arriva la bolletta dell'Enel a gogo. Infatti già, lui ha, lascia stare. 230 euro, ti basta. Tanto? 237 per l'esattezza. Di dove vivi? Da me. E pagavo 58 euro, 70 euro al massimo di corrente. Ma stai pagando così un bel già? Non lo so, Fra, non lo so. Anche quella di fronte gli è arrivata a 200 e passa. Però quella lì c'aveva la figlia da fuori che è venuta col marito e la bambina, quindi erano già 2, 4 in 5 erano, e noi siamo in 2. Un bel stai pagando, questa è l'unica bolletta che mi è arrivata alta, le altre te l'ho detto, quando mi è arrivata proprio alta è 170 euro, la penultima. È un bel. Ma non è che c'è da prendere il prospegatore. Anche lo scaldabagno, cioè lo scaldabagno che si può fare. Voglio vedere che andare via via vabbè, perché io ce lo sconto. Però voglio vedere che andare via vabbè. A me mi è arrivata, io sono meno 78, perché ne ho pagato in più. Perché ero sconto. Ebbene, ho pagato in più, ho pagato bollette a 240. 240, 260. Fra, ma tu hai lo sconto per l'energia elettrica? K è positivo. E cosa bisogna fare per avere questo sconto? Si deve andare al capo, fare la domandina. Capo. Vabbè. Allora lo facciamo, va. Perché se arrivano le bollette così alte, se vi vuole anche la terra, no? Tutti i mesi così. Vabbè, non la metto, te la rimborso. K e ti arriva direttamente scontata. Vabbè, scontata, io mi sto pagando anche l'abbonamento TV, ed è... lasciamo la bolletta, quindi pago anche quella schiena. E come tutti, a chi la si non paga? E perché prima non li pagavano e adesso sei costretto, perché ho detto, vabbè, se vuoi non lo puoi tu, ma io lo pago, se non è freddo. Io vado a fare la luce, vado via tempio. Non ho capito. Ho fatto qua la luce, casino, diciamo l'appuntamento, vai, vado tutto. Ehi, lo so, ma io c'ho un altro caffè, capito? Io lo vado dove va Franco. Mi trovo bene, la Chiara. Vai lì, te lo dici, ma come le dici, ma si può fare qualche cosa, le dici. Io sono, cioè, mi dormo a stendi, no? Come bollette, ma si può fare qualcosa. Se però fanno perché no, a ora c'è 80 euro di meno, per dire. Ma cosa, cioè, ma cosa decide, ti preparo lo sconto. E adesso chiedo, tanto devo andare perché devo mettere una firma per l'avvocato e poi le chiedo anche questa roba qua. E va infatti, guarda Chiara, che dice la cosa, io vado a fare e lo so. E comunque vai, ti compra la loro vita, e se no io un casino, e vabbè, anche lo salto a bagno, cioè, io ce l'ho stato attaccato. Io l'attacco la notte e lo spengo la mattina alle 8. E vedi, sbagliato, lì è la fregatura. Perché? Te lo dico io, lo sto da bagno se tu lo attacchi. E poi lo stacchi, rientra acqua fredda di nuovo. Ci dovrò attaccare. Lo lascio sempre attaccato io, non stacco mai. Se no, quando c'è da fredda si riattacca in automatico, non sarà. No, io ho quello elettronico, l'acqua calda dura 3 giorni. Tu lo attacchi e l'acqua calda ti dura calda 3 giorni. C'ho quello elettronico dell'Ari, se l'avevo pagato un mese di là, però il funzionamento è diverso, dai, ti tiene l'acqua calda. Vabbè, io c'ho quello normalissimo, lo scaldabagno, capito? Sì, prova a metterti quello elettronico, lo paghi 250, roba del genere, però poi mi dà la risposta, perché l'acqua ti dura anche 3 giorni. 2 giorni dura proprio bollente, il terzo giorno rimane tiepida, però si può usare, dai. Già, io c'ho quello normale, l'ho pagato due anni fa, 112 euro Ariston, però non è elettronico. Abbiamo lo shampoo, come acqua calda lo shampoo, e non ne pulisco, perché se lo pulisci lo rovini, non esibi più. Addio Bibbia, non vedevo una lacchetta da voi. Si fanno così, ma una frontata a fare quello, perché poi magari si piglia pure un lungo, c'è pure di plastica, non va bene. C'è quella acqua calda, quindi a voi ai nostri, a tirare, la portata di notte. Ma i batteri si devono iniettare, se tu non li metti alla temperatura giusta, i batteri li lasci vivi. Lo so, con il disinfettatore pure c'è acqua bollente. Ma sapete tu come fare? Io lo facevo con l'acqua bollente proprio per disinfettarlo. Vabbè, adesso ci sono anche i disinfettatori e se lo disinfettano e non c'è bisogno di stare a mettere acqua bollente e cose, lo disinfettano già qui. Ma prima si bolliva. Per guardarmi però mi sono perfetti, sono. Tu ci fai la prova, fatto la prova noi, in giro anche da un gatto qui però, quando tutto il bambino, sicuramente siete saporato, cioè se tu gli sciogli la cosa come quando c'è. Se tu li metti nel fornello, si scioglie il però, poi c'è dentro, si scioglie, diventa strano. Poi cavolo tu ha fatto un figlio, anzi che ti fai mangiare questa cosa, non è il genitore. hanno detto di fare così, a tu va bene. KK. E beh, da bravo e fai. Rumi due. Va. E saluti, a vi la faccio giù. Mamma mia, intendi la sirena da tu. Lo so. Io guarda, tutti e due stavo allenandoli sino all'ultimo spettacolo del televisore, c'era Maurizio Costanzo su canale 5 e dopo entravo a lavorare alle 7 e quando entravo a lavorare i miei colleghi mi dicevano ma non ha dormito manco Cialotti, ma era uno zombie diviso. Poi quante notti ho passato allenandolo, ci davamo il cambio perché poi faceva venire anche il nervoso, quindi ci davamo il cambio perché stavi tremando tutta la notte, poi dovevo metterlo nella culla, facevi piano piano quando era addormentato, dovevo metterlo nella culla di nuovo. Anche avete pigliato lo video. Purtroppo che a figli lo sanno, se dai 3 mesi i bambini hanno le coliche, quindi ti devi mettere a pancia in giù, dargli gli sculaccioli piano piano nel sederino per farli addormentare, e io uno di voi si è giurinato così. Ehi già, mamma mia, che cazzo, ci abbiamo il frigo, non abbiamo la abbiamo dovuto portare la trompetta, chissà come, perché c'è il numero, ma è enorme, cioè, abbiamo dovuto portare quella fare che è bambino, va meglio, se no, fa poco, non mi ha detto di stare facendo, fa un mese e mezzo sta facendo già. E d'altronde anche i genitori non sono mansiti, quindi ha preso dai genitori. Già lo so, già. Minchia. Avanti, fra. Giù. Certo, non pesca non vedi orate via la marina. Io. Dove? La marina di sotto. Oggi l'anziano economico ne ha preso 3 di quelle grandi. Capito in terra. E sempre si sono pescati lì, fra, lì c'è la cosiddetta autostrada, c'è quel canale ma devi arrivare a 150 metri di lontananza, se riesci ad arrivare a 150 metri entri nel canale, lì c'è il passaggio. Sempre c'era uno che aveva canne da lancio e ne aveva preso 4, un giorno mi sono avvicinato e gli ho detto ma come fate? E io gli ho detto io guarda ti dico la verità, noi facciamo lezioni di lancio, siamo in una squadra di pesca, siamo proprio dei lanciatori, facciamo scuola di lancio e lanciamo sino a 150-200 metri, quindi arriviamo sino al canale proprio dove c'è il passaggio. Un'altra persona sì, se la trova magari sparsa qualche orata, però lì c'è proprio il canale, capito, dove passa. Ma tutte grandi, la più piccola 4 figli. Forse con questo col freddo adesso scende a terra il pesce. Ma io sono il contrario, che col freddo si allontana. Vabbè, comunque. Adesso sino a dicembre le orate ci dovevano essere, però dopo dicembre, adesso è primavera, dovrebbero esserci a gogo. Magari è un'occasione che stanno passando, è un passaggio che stanno facendo adesso. Una volta sai fra cosa ci è successo, avevamo tutte quanti le canne, ce n'era un po' di gente pescando. Beh, si sono abbassate tutte le canne di colpo, non abbiamo capito cosa cacchio era. Tutti i canti di rete, tutti i canne di colpo si sono abbassati. E adesso diciamo che è il periodo dei calamari, dai. Ma che galleggiante gente. No, a me non mi piace, a me piace a fondo. E lì tassativamente si pesca con i granchietti di sabbia. Tu prendi i granchietti di sabbia e lì le peschi con i granchietti di sabbia, ma è un travaglio, bravo, ogni volta va a pulire un granchio, un casino, dai, se lo vuoi mettere bene, almeno che tu li togli le zampette quelle che scavano e gli entri la morì e un altro glielo entri dritto. però per farlo bene lo devi far passare tramite la lenza, farlo scendere nell'amo, capito? Per farlo proprio bene bene. Riprendi anche un attimo. Ho detto bianco per me che vado a preparare qualcosa. Allora, piano piano, hai sempre in bagno, poi faccio le cose. Ok, ma già accendiamo. Fra, che ore sono? Ehi, Antu, va bene. Che ore sono, Fra? Franco! Ecco, avanti. Oh, che brecca. Ciao Antonio, ciao Gianni, c'è anche Franco se non sbaglio, ciao a tutti. Antonio, ti ascolto un po' più basso, come mai? Cosa hai combinato? Non abito più là. Ah, hai cambiato zona. Ma tu sei fortissimo qua. Invece tu, prima mi arrivavi fortissimo, caspita, adesso hai cambiato parecchio. Ma pure tu non è che mi hai cambiato molto qua, sino per 20. Tu prima mi arrivavi 9, anche 9.30, adesso sei... Vabbè, io sono agganciato adesso, Sei 5 a questo smitter, ma dovrebbe essere tipo 8-9, dai. Ah, però, ripeto, sono agganciato. Che zona sei, lo puoi dire? Mi ero buttata la roccia. In aria non siamo lontani, però. È che diciamo che la mia antenna rimane coperta dal palazzo, dai. Tu sei... E tra me e te c'è il palazzo, il mio palazzo stesso, dai. Eppure io l'altro giorno cercavo fra... Ciao Gianni, dimmi. Ho detto, ho cercato di guardare l'antenna di Antonio, non ce l'ho fatta vederla. Boh, ho detto, e di è l'antenna? Nel cortile. Ah, dall'altra parte. Sì, la metto qua accanto. Ah. Ma è sul tetto, no? No, non è sul tetto, ma la metterò. Cioè, la metterò quasi sul tetto. Cioè, come che sia sul tetto? Metto un palo grande nella facciata e via. Come meglio, ma tu sei del mio condizione, io sono al primo piano e la punta dell'antenna arriva, diciamo, alla grondaia. Ma io non mi sei morto, no, io la faccio proprio arrivare sul tetto. Guarda adesso che sono liscio. Guarda a vedere, qui sono 3,8 watt. 7, sì. Ah, vabbè, quindi più o meno siamo lì, io ti ho dato 7,8 poco fa. Cavolo, sei passato da Santiago, no, 9,20 a Santiago 7,8. Mamma la differenza, ragazzi. Già la cammina il bambino. Sta quanto è fra? Non lo so, è il 10507, non so quanti ne dia. Ciao. Abbiamo parlato assieme. Ciao, un abbraccio Antonio, stammi bene. Vabbè, buon trasferimento allora. Cosa voglio dire? Sono, non so quanti siano in effetti, perché quello che dice l'indicatore che c'ha lo strumento non è reale. E quanto dice? 1200? No, è 507. E quanti fate dovrebbe dare? Ma non lo so, se ti dà 300 forse. Ho capito. E vabbè, poi 300 non li dà mai, ne dà effettivi a 250. Mia, 200 di portante e poi modulando arriva oltre 400, ma ripeto, non sono reali. Cazzo. Quello è della ZG. Sì, è a transistor, quindi non è a valvole. C'è l'accordatore automatico. Comunque è buono perché non si distorce, perché siamo piccini. Non lo distorce perché? Perché io ho abbassato molto i watt, cioè questo baracchino usciva con 10 watt. Ho notato che sì, l'importante aveva di tipo 400 di importante, però andava un po' a saturare, un po' a deteriorare la radio. Invece così, con 4 watt scarsi, ma ce l'hai più picchi di modulazione e la radio rimane bella, non è risente. Sì, sì, è vero. Vabbè, lei lo ringrazia in ogni caso. E infatti, no, ci ho attaccato subito, tanto già siamo a Sassari. Lo attacco un po' per scaldare, togliere un po' di umidità da addosso. Cappa, cappa. Oi, oi, oi. E vabbè. cosa mi racconti, Fra, di bello? Io pensavo che stasera ci fosse un bel po' di gente, visto che è domenica, ma gli altri giorni, anche ieri, dubbiano di niente. Non so, ogni tanto però esci un po' a tratti, sicuramente non, il PTT non ti piace bene, c'è un qualche falso contatto. Mi sono orientato adesso, eravamo un po' a passeggio. Sono scesi anche a Portotone, c'è la gente che puntualmente si fa il bagno come tutti i giorni lì. C'è un mio amico Antonio, non so se lo conosci. Si fa il sì, Portotone, Trentino, Alghero, lui ogni giorno cambia, però sempre qua in zona. Gianni. Avanti, chi chiama? Avanti, come mi ascolti? C'è in basso, Tony. Ma c'è in radio. E io. Prova a vedere. 1, 2, 3, prova di modulazione. Già, va bene, dai, avevo. Io ho abbassato il volume perché Franco arriva una bomba e forse era quello, dai, alzate appena il volume e si sento bene. Ecco. 1, 2, 3, prova. Ehi, ciao Tony. Ciao anche a te, ben sentito. Come ti arriva a te? Prova un passaggio. 1, 2, 3, prova di modulazione. Ecco, i picchi arrivi al più prima del 30, vai. Prima del? Del 30, sei sul più, quindi penso sul 9,20 abbondanti. La radio mi interessava. La radio non è il macio, però va bene. Poco fa ripasso, adesso hai migliorato. Ehi, cappa, andrà bene. Dai, sono entrato già. La radio di Gianni è una radio 5, perfetta. Cappa, aspetta un attimino, Franco, avanti. Figlia, ho detto che sono rientrato, che ero fuori, stavo facendo il caffè. Tu stai sempre bevendo il caffè, come Furia, sì, poi ti diventa il pelo più nero che c'è. Ah! Io bevo il caffè già, capito, tutto lì, tutto pelosino. Ah, Franco è fortissimo, eh. E ti fanno i capelli. Tutto a tratti già, Gianni, tutto a tratti sei uscito. Passo al microfono, gli devo mettere un po' di CRC, adesso non ne ho voglia di... Dopo glielo metto, lo apro e gli metto CRC del PTT, sicuramente come era fermo, non usandolo, ha fatto questo difetto qua. Se lo riprendete voi e lo faccio adesso, dai. Gabino, c'è Gabino anche, Tony. Cioè che ho detto il microfono. Come esce la radio? Sempre, non è il massimo, non è una radio 5. Addirittura, il microfono male. Non lo so, non è chiara, non è limpida. Aspetta. Oh Gabi, dammi un rapporto di segnale, di radio e di segnale, per favore. Non hai capito. Ah, a me stavo dicendo forte, Franco sono. Franco. Fra, dammi un rapporto di segnale, radio e Santiago, fa la cortesia. Sì, 9.35. La radio è 5, però c'è leggermente, non so se è un'alternata, ha preso. E allora può essere problema di alimentatore. Adesso come va la radio? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Adesso il segnale è più basso, però c'è i picchi di modulazione più alti, la radio è più forte. Quindi va bene così la radio? Sì. Ok, la prezzo. Adesso si è sceso a 5 di segnale, al mio Smith, questo è un po' avaro, Però hai dei picchi a oltre il 9, 9, 10, boh. Che zona sei tu, Fra? Sono Sacro Cuore. E te arrivo così in basso? Io ho l'antenna, la mia, non è sul tetto, è nella finestra. Ah, capito adesso. Purtroppo no, perdo parecchio. Pure tutto palato in giro in giro. Perché la punta dell'antenna arriva sotto la grondaia, dai. E adesso insegnate come ti arriva. 1, 2, 3, prova di modulazione. Sì, sul più del 30, però è satura. Ok, va bene così, più o meno, vai. Se abbassi ne guadagno la radio, va. Lo lascio così, sì. Sì, per parlare qua a Sassari va meglio. Cappa, avanti, Franchis, Califo, là, e pari di tutti, vabbè già, sta sfruttando un po' il CRC. Lo sta affogando questo microfono. È vero, mi contate la mente del Zarb, adesso che sta fare contatto, perché si mai detto l'altra volta, esce a tratti, esce. Un po' l'avete basso a basso, poi forse, poi normale, poi... Sì, ogni volta, perché la portante aggancia, soltanto che non esce di radio a volte, esce a tratti. Penso che sia un problema di contatti, Anche qua una volta, in questo microfono, mi ricordo c'erano rotte, qualche lamella c'era rotta. Era stato riparato, dai, però già sta andando bene, è leggermente più molle, non ha più la PTT, la forza di che c'era prima, è un po' più morbido. Buonasera dottore, a controllarvi. Minomi, e me, 5.000. Sì, buonasera a tutti. Andate tutti dal dottore a controllarvi. Vai da bravo, ascolta, come ti arriva il segnale, Emanuele? E qui già lo sai come sono precario io, ho lo stesso segnale della stavolta. E adesso guarda, quanti arrivo, 1, 2, 3? Fa un passaggio, uno e l'altro, sempre con la portata schiacciata. Allora, questo passaggio, 1, 2, 3, 4. Adesso 1, 2, 3, 4, aspetta. E 1, 2, 3, 4, avanti. Allora, il terzo si è in saturazione, il secondo va bene, e passi comunque da 1 a 3 e poi a 3 e mezzo. Vabbè, tu ce l'hai appena, come ce l'hai, giustamente. Allora, e che zona è Emanuele? Emanuele si chiama? Sì, Emanuele praticamente zona... Cos'è? Inizio... Santorso, Bretellina, dai. E anche qua, anche qui, è sempre coperto per me. Anche a me mi ascolta basso. Ah, io ti ascolto abbastanza bene, fra, tranquillo. Sì, ma fra, se tu vedi come condizione Emanuele è modulato, ti vuole male in capo, Peggio di me. Peggio di te, ma peggio. Ma io, Emanuele, dammi un rapporto di segnale a me, come ti arrivo. Cazzo, ti devo da scala, tu. Mi ascolti, sì. Sì, a voglia, fra, cazzo contro le segnali. La radio va bene, sì. Sì, bella chiara, va benissimo. Cabe positivo, dai, ok. Allora lui all'interno, Franco, all'interno della casa, tutto ci mette armato e c'ha una tenda attaccata allo frigorifero. Infatti ogni volta apre il frigorifero e ci beve un bicchierino. Ah, quindi la tenda è dentro casa addirittura? Sì, sì. Cazzo, complimenti allora. Sì, fra, è dentro casa sì, veramente, è dentro casa, anzi è già tanto che esce, figurati. E non lo puoi mettere sul tetto perché c'è il tetto proprio fatto a piramide, è un casino. No, almeno la mia è attaccata, diciamo, a quel ferro che c'è per tendere la roba. A che piano sì? Ehi, al primo sono, è una casa a 2 piani, perché io sono in mezzo praticamente, dai. E l'antenna l'ho attaccata al ferro per tendere. Anche io, al primo piano, però l'antenna è da toccare, non fuori. Sì, ho fatto un buco nel muro e ho messo una staffa lì. Ho fatto tipo una canna da pesca a me. Che antenna c'hai? No, l'ho fatta io, un'antenna tipo la Green Master, fatta col cavo RG58 più il 213 come sub e come condensatore. Là. Ah, come c'avevo io una volta. Ah, canna da pesca anche io, va bene, guarda. Gianni? Sì, già va bene, avanti, chi vuole entrare? Avanti, Bitti, proprio ce la mangiare, che ha fatto tutto. Sto provando il microfono, non l'ho ancora montato, però come va? Adesso va bene. E invece tu, Fra, che microfono ti hai usato? È uno Shure. Ho capito. Allora, lo Shure che ho io, devo adattarlo qua, ho capito, Sì, questo microfono che ce l'ho, boh, 30, no, no, 30, forse 40 anni, veraggio. Ce l'ho anche lo Shure. Mi devo collegare il PD, faccio un pezzo. No, non esce bene, io non ho mai toccato, ma poi dipende sempre dall'abbinamento con questo. Io lo sto usando con un samurai adesso, con un vecchio samurai. Zappa, e io voglio passare a Saturneco. Manuele, guarda, c'è aumentato adesso. Manuele. Sì, è fra. Guarda che adesso sono agganciato, si è aumentato per qualcosa. E a voi adesso sono 9.20. E prima? Prima eri sul 3.4. E quindi anche da te c'è un bel incremento, dai. No, ma pure, a parte il segnale, lascia perdere il segnale, che io sto l'antenna dentro. Però la modulazione è bella chiara, forte. Sì, perché lo sto pilotando con pochi watt, capito? Invece di dargli molti watt, gliene do pochi, in ingresso perdi, non so, un centinaio di watt magari di potenza, però la radio non si rovina. Sì, c'è una bella modulazione. E lì esco con cuore io come ti arrivo. Questo è molto avaro, il segnale è un 3, liscio come si adesso. Però ripeto, dovrebbe essere un 6-7 credo, di uno smitter normale. Sì, ma la modulazione com'è? Bassa? No, è molto buona, cioè rispetto al segnale è molto buona. Ok, perfetto, dai. Vai Torino. Guarda, c'è cambiato qualcosa, Franco, che avevo addirittura qualcosa passato qua. Ma di radio? È il segnale. Prova. 1, 2, 3, sei sempre sul più, quindi 9.20, 9.25 dovrebbe essere. Ho capito, spesso invece li do così io. Come mi ascolti così invece? Così, il segnale sembra bassissimo, però la modulazione ne guadagna tantissimo, i picchi sono molto positivi. Ok, abbia Manuè non mi ascolta, Manuè. Impossibile, adesso con quanto lo stai pilotando? Io? K. Adesso sono esattamente 7 watt. Va benissimo, così è micidiale. La radio è buona. Ultima. Ok, Manuele. Sì, Tony. Come mi ascolti tu? Bene. Santiago? Santiago si è abbassato, prima era più alto, però la modulazione è buona. Ok. Andami. Qua passi, guarda, da segnale quasi zero, da 1, 2 a 9, a 9,20 di modulazione. Addirittura? Sì, sì, ha questo smitter, ripeto, è un po' particolare questo smitter. Guarda, questa è la modulazione, Gianfranco, com'è? Grazie, come ti arrivo? Da Manuele sicuramente qui facendo il tutto. Cazzo, a se lo dà per su, se 80. E la radica del pure, come ti arrivo così? Franco California, come ti arriva te? 9:10 Radio 5 qua. E adesso lo prendo la modulazione. Allora c'è il varato di segnali. Non può essere. Aspetta, 9:20 sì. Ma cosa va bene da? Capo di positivo. A me bene, da te invece con questo quanto sta arrivando? 9:10. Sì, fondo scala a me. Chi cade a fondo scala? Io sono pulito poi della zona tua. E allora è per quello. Adesso Gianfranco qua arriva 9:30. Io? K. Franco, non Gianfranco, Franco. Adesso sono liscio però, Adesso sei 9:10. Adesso sono liscio. Tu adesso sei liscio, no? Sì, sì, no, io non sto usando niente. Sto uscendo liscio, senza niente. No, qui passi il 9:30, sì, io credo 9:40. Vabbè, io sto uscendo, sto pilotando 10 watt. E io adesso sono con 3,8, esattamente, dai. Qualcosa la radio mia ha cambiato, che ho fatto qualcosa. Forte, la radio è forte. Ok. Ma già lo sai che sono solo io, Fra? Boh, non mi ricordo. Dove sei? San Camillo, dove sei? Sono San Camillo, all'interno. Sì, diciamo che siamo... c'è il monte, tra me e te c'è il monte, dai. Ai, Franco. E avete parlato in due? Ho detto, ce va bene. Gianni, ci sei riuscito a chiudere il microfono? Sì, ci sono riuscito, ma sto andando a metterci a posto la roba. Ok. Ma cosa volete, che vi metto la portante? Mio è che è nuovo. Ciao, Sari. Ah, ecco, buonasera, amico. A tutti. Ciao, Sari. Ciao, Franco, carissimo. È un po' perché non ti sentivo. Vabbè, quella roba poi com'è andata? Che roba? Quella roba che dovevi fare. Ah, mocciato. Ma porca paletta. Fortuna ci vuole. Non è andata, dai. Ci hai provato anche questa volta. Quando non va. Però è da apprezzare la tua buona volontà, dai. Io da cui ti dica. Purtroppo non è andata bene. Sì, io sarei andato peggio forse, che con la memoria che mi pianta, come si dice? Passo tutti con l'Alzheimer sempre. No, questo da ragazzo così, non mi ricordo mai niente, sto sempre scrivendo da tutte le parti, attacco bigliettini dappertutto. Ciao, Tari. Ciao, Manuele. Tu sì che mi capisci. Passo tutti con l'Alzheimer sono. Ciao, Tari, buonasera. Ciao, Fra, come sta va bene? Sì, sto provando questo pezzo di plastica a vedere se funziona. Mi pare che già stia funzionando. Siamo tutti bici, Manuele. Cosa fa? Siamo tutti bici. E portate arrivarci alla vecchiaia, portate che a me è il più bici sono io. Questo è bella dalla via. Oh, Fra, a me pare che il più vecchio sono io qua. No, io sono vicino ai 60, dai. Vicino ai 70? 60, 6-0. Sei vicino, sì, dai. Non mancare. Io sono un bel numero di età, una bella leccata. Più giovane sono io, allora, 35 anni. Sì, panca. Ma ero più giovane al vero, Manuele. Oh, yeah. Manuele è il più giovane di tutti. Gli altri siamo tutti... cariati, siamo tutti... Manuele è Franco, il più giovani sono gli altri, siamo tutti messi male. Alco, pensa, io ho 60, ma i libri non sono 30 a me. Io sono 69, fate un conto. Allora, un libro, se ne chiamato la moneta, chiamiamo pure il ritaglio, no? Io 34 e mezzo anche di euro. Quindi sei quasi a 70, sì. Cappa, però non le dimostro, me le porto bene perché bevo acqua figli c'è nemmeno. Meglio, meglio, ma c'è propagazione, sento. Ma io ho QRM, boh. Ma io qua, meglio, curatela in terra, QRM è zero, quindi anche se arriva a Santiago 0,01 lo sento. Rieccomi rientrato in battaglia. Bene, bene, riprenditela. Ehi, allora. Sta andando bene, sì. Ehi, c'è anche Tatalino, me. Ciao Tatalino, ben sentito. Ciao Gianni, ciao. Mi anche Gianni è un giovanotto, come Franco. E io invece sono un vecchiardo, Tonino peggio di me. Siamo rovinati, se sto. Tonino peggio di me. Ci dici come c'è che sì, però non come sta. Sì, che di compagnia, Debbie. E allora, a te? 30 meno 60 meno 30, sono 30, là. Sì, Gianni, la gente la propagazione, chi è? Li sento anch'io, sì, li sento, li sento. Ma noi, se lo sappiamo la testa per la virusi. Devono essere americani. No, io li sento bassissimi, però sento la modulazione. Mamma mia, sto modulando con questo fiago di CRC del microfono. Puff. Lavato l'hai? L'ho smontato, ho tolto tutto, l'ho tolto PTT, tutto quanto. E Capus l'ho lasciato scheletrito. Quando poco fa ho modulato ero con la Capus in mano e col PTT per provarlo. E poi l'ho soffiato a buffo come si faceva da ragazzi, le carburature eccetera, a buffata così. E poi le ho messo il CRC, dai. A cuore aperto stai modulando, dai. Bisogna dello Skype per i contatti, non CRC già, fermano lioso.